Buongiorno e benvenuti a Un giorno alla volta, il devozionale quotidiano sulla parola di Dio curato dalla Chiesa Logos a Firenze. Questa è la riflessione di oggi. Questo è Matteo, capitolo 7, versetto 24. Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sopra la roccia. Io vengo da una piccola città sui Caraibi colombiani che è stata costruita nello spazio che c'è tra il mare e la montagna. E una delle cose che più mi ha colpito quando durante la mia adolescenza ho vissuto in Colombia è il divario economico che c'è. Il divario economico che c'è, che porta molte persone a costruire per bisogno economico le loro casette fatte in assi di legno, pezzi di plastica e pezzi di lamiera sulle colline e altri però sulle sponde dei fiumi, dove non si può costruire di regola. E mi ricordo che durante la tesi di laurea che intervistavo alcune di queste famiglie, la cosa che più mi ha colpito non era solo il senso di incertezza di chi vive sulle sponde del fiume, sapendo che in qualsiasi momento poteva arrivare un'alluvione e la loro casa sarebbe stata distrutta e avrebbero perso il poco che avevano, ma mi ha colpito anche tanto il senso di sicurezza che dava a quelli che avevano costruito la casa sulla montagna, nonostante ci fossero anche una grande serie di problemi derivati dalla pioggia e da altre circostanze climatiche. Però il fatto di aver rotto la roccia, spaccato la roccia per poter costruire lì la casa, gli dava un certo senso di sicurezza. Ed ecco che questo esempio così quotidiano è la vita di molte persone e ci aiuta anche a comprendere ciò che Gesù insegna in Matteo 7:24. Le nostre vite hanno bisogno di fondamenta solide e quel fondamento è ascoltare e mettere in pratica la sua parola. Cerchiamo di comprendere meglio questo passaggio. Gesù conclude il sermone sul monte con un potente avvertimento. Non basta ascoltare i suoi insegnamenti. La chiave sta nel metterli in pratica. L'immagine di costruire sulla roccia rappresenta una vita fondata sull'obbedienza alla verità di Cristo. Al contrario, chi costruisce sulla sabbia è colui che ascolta ma non obbedisce, rendendo la propria vita vulnerabile al disastro. Spesso le persone attribuiscono significati diversi a cosa significhi costruire sulla roccia o sulla sabbia, ma la verità è che il Signore non è ambiguo. Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia, e chiunque le ascolta ma non le mette in pratica è come un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Nel contesto del passaggio, Gesù aveva insegnato principi radicali sul regno dei cieli: amare i nemici, dare senza aspettarsi nulla in cambio, cercare prima il regno di Dio, la preghiera, le discipline spirituali in generale, l'osservare i comandamenti e altro ancora. Ma la chiave stava in ciò che avrebbero fatto con queste verità. L'obbedienza alle parole di Gesù è l'equivalente di chi costruisce su un fondamento solido, mentre chi ascolta superficialmente, cioè ce n'erano alcuni tra gli ascoltatori ovviamente, è come chi nella sua stoltezza costruisce sulla sabbia. E vediamo tre verità bibliche che possiamo estrarre da questo passaggio. Numero 1. L'obbedienza rivela la nostra fede. Non è sufficiente conoscere la parola di Dio, dobbiamo viverla. La fede autentica si rende e si riflette sempre in azioni concrete, costruendo sulla roccia di Cristo. Mostriamo di confidare in Lui come nostro fondamento. La verità numero 2. Le tempeste sono inevitabili. Gesù non promette una vita priva di difficoltà, ma assicura stabilità a coloro che basano la propria vita su di Lui. Le tempeste possono essere prove, tentazioni o sofferenze, ma una vita fondata sulla parola rimane salda. La verità numero 3. Cristo è la roccia inamovibile. Costruire sulla roccia significa dipendere completamente da Gesù e dalla sua opera redentrice. In Lui troviamo sicurezza, identità e speranza. Il suo sacrificio sulla croce ci dà accesso a una relazione eterna con Dio e ci rende capaci di vivere in obbedienza. L'invito di Gesù in Matteo 7:24 è chiaro: edifichiamo le nostre vite sulla sua verità. Rifletti, stai mettendo in pratica ciò che egli ti ha insegnato? Ricorda che non importa quanto splende, quanto sia più bella o appariscente la casa esteriormente, se il fondamento non è solido, non resisterà alle tempeste. Fa di Cristo la tua roccia oggi. Preghiamo. Signore, grazie per essere la nostra roccia salda e il nostro rifugio nei tempi di tempesta. Perdonaci, Signore, quando abbiamo solo ascoltato la tua parola senza obbedirla. Aiutaci a vivere in modo che rifletta la nostra fede in te. Insegnaci a costruire le nostre vite sulla tua verità, confidando che tu ci sosterrai sempre. Nel nome di Gesù, Padre. Amen. Oggi leggiamo Genesi 7, Matteo 7, Esdra 7 e Atti capitolo 7. Grazie per essere stati con noi. Un giorno alla volta è una produzione liberamente tradotta e adattata in italiano. Se desideri approfondire, ricevere ulteriori risorse o metterti in contatto con noi, cercaci online come Chiesa Evangelica Logos. A domani!